Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Domiciliari per il ragazzo con la pala, Alfano invia gli ispettori dopo le scarcerazioni, Maroni sugli infiltrati solo illazioni. Berlusconi con me altri 8, la Corte dei Conti indaga sui consulenti del ministro Brambilla. La neve arriva anche sull'isola Romano e a Capri, nelle città emergenza senza tetto, ecco come passano la notte al gelo. Pesca fortunata per l'Italia in Champions, per l'Inter riecco il Bayern Monaco. E buongiorno dalla redazione, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. Esce dal carcere dunque anche il sedicenne identificato come il ragazzo con la pala negli scontri di martedì a Roma. Il giudice minorile ha deciso per la permanenza in casa, in pratica arresti domiciliari. Per lui il pubblico ministero aveva chiesto invece il carcere. Formalmente è accusato di rapina per aver sottratto un manganello e le manette a un militare della Guardia di Finanza. E intanto il ministro della Giustizia Alfano ha annunciato verifiche sulle decisioni prese dai magistrati. In Senato ha parlato anche il ministro dell'Interno Maroni. Sentiamo allora cosa emerge. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno dal centrodestra. È un coro di critiche alla decisione del Tribunale di Roma. Dopo gli attacchi del sindaco Alemanno arrivano quelli del ministro dell'Interno Maroni, che nella sua informativa si è scagliato contro la scarcerazione dei 23 fermati, una decisione che rispetto ma non condivido, ha detto il responsabile del Viminale, perché esiste il pericolo di reiterazione. Logico sarebbe stato mantenere per loro le misure restrittive. Intanto il ministro Alfano ha fatto sapere, come dicevi tu, in una nota che manderà gli ispettori al Tribunale. Maroni ha invece lodato la professionalità delle forze dell'ordine durante gli scontri, che ha permesso di evitare conseguenze più gravi, garantito la libertà di espressione a chi voleva manifestare pacificamente, e poi escluso nel modo più categorico che ci potessero essere infiltrati. Sentiamo questo passaggio. Sono naturalmente destituite di ogni fondamento le illazioni diffuse relative alla presenza tra i manifestanti di provocatori inviati o infiltrati dalle forze di polizia. Tali ipotesi sono assolutamente infondate e gratuitamente offensive nei confronti di tutti gli operatori delle forze dell'ordine. Il ministro dell'Interno ha poi definito i responsabili degli scontri una minoranza di professionisti della violenza che ha preso in ostaggio il corteo degli studenti, minoranza ispirata dal solo intento di creare incidenti e turbare il normale svolgimento dei lavori delle istituzioni parlamentari, violenti che non perderanno le prossime occasioni come quella della ripresa dell'esame del DDL Gelmini la prossima settimana in Senato. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. E dunque la prossima settimana riprende, dicevamo, l'esame della riforma università e si annuncia un'altra settimana cruciale, fuori e dentro il palazzo. È tornato a parlare di politica da Bruxelles Silvio Berlusconi, Andrea Viali. Sì, Anna, guarda ai moderati Silvio Berlusconi per cercare di allargare la sua maggioranza oltre al completamento delle riforme. In un messaggio ai militanti del PDL, fra i suoi obiettivi stamattina il Premier ha individuato anche la riunificazione di tutti i moderati sotto un unico tetto, ma senza i pasdaran che si schierano con Di Pietro, ha scritto Berlusconi, che nella notte a Bruxelles, come dicevi, aveva parlato anche di altri 8 parlamentari che sarebbero pronti a passare con lui. Ma sentiamo le sue parole. Lo potete capire anche voi, no? Chi era salito su un treno a destinazione terza gamba del centrodestra si è trovato con una destinazione a sinistra, cosa volete che faccia? Sulla compravendita di parlamentari dall'opposizione oggi è intervenuto Di Pietro, Italia dei Valori, che ha chiesto l'intervento del capo dello Stato. Basta populismo, l'unità dei moderati non si fa con gli slogan ma con i fatti, e invece la replica del leader centrista Casini all'appello di Berlusconi. Per ora da Montecitorio è tutto, Anna. E grazie anche Andrea Viali. Intanto a Bruxelles vanno avanti i lavori, seconda giornata di vertice dopo il via libera al fondo Salva Stati. Oggi peraltro Moody's ha tagliato il rating dell'Irlanda da AA2 a BAA1. Allora andiamo a Bruxelles da Gerardo Pelosi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Il Consiglio è addirittura da vivo e il Presidente Berlusconi sta proprio in questo momento uscendo dal palazzo Justus Lipsius per rientrare a Milano. Una trasferta molto positiva per Berlusconi, che ha praticamente avuto una reinvestitura europea sia da parte del vertice dei popolari ieri che da parte del Consiglio europeo, con l'intermezzo nella notte scorsa di un incontro con circa 500 giovani del PDL venuti in trasferta a Bruxelles. E questa mattina Berlusconi ha inviato un messaggio al sito Forza Silvio in cui rilancia i temi politici di cui abbiamo parlato anche poco fa. Cercherò di riunificare i veri moderati e completare le riforme istituzionali. Ecco Gerardo, sul fronte europeo Berlusconi questa mattina ha parlato invece di Eurobond, l'unico punto su cui l'accordo ancora non è arrivato. D'accordo, non è arrivato, lo stesso Berlusconi sa che non è un tema né per l'oggi né per il domani, è un'ipotesi che merita comunque di essere studiata nella sua fattibilità e allo studio appunto c'è un'ipotesi di fattibilità, Berlusconi dice io comunque li comprerei. Per quanto riguarda invece il budget, il bilancio comunitario, non è molto chiara la posizione italiana che ieri era disposta a firmare la lettera di Cameron per un taglio delle tasse in linea con i tassi di inflazione anche per il 2012-2013, ma evidentemente dopo un più approfondito esame e approfondite trattative l'Italia non firmerà la lettera di Cameron che invece è sostenuta da francesi e tedeschi. E grazie a Gerardo Pelosi. Sergio Nava ha intervistato Daniel Gross, direttore del Centro di Studi Politici CEPS a Bruxelles. Penso che questo sia stato soltanto un regalo di Natale a Angela Merkel, perché così ha, come dire, una noia di meno con la sua Corte Costituzionale, ma in fondo sulla sostanza oggi non hanno deciso proprio niente. Cos'è che l'ha delusa di più? Si sapeva fin dall'inizio che inserire due frasi nel trattato che permettono all'Unione Europea, o piuttosto agli Stati membri, di salvare un altro Stato, era un esercizio piuttosto in favore dei tedeschi per risolvere un problema giuridico interno tedesco. Sul piano europeo, sul piano giuridico non risolve niente, soprattutto non hanno discusso di come spezzare il legame tra l'insolvenza possibile delle banche e degli Stati nei paesi periferici e questo è il nocciolo della questione che rimane tuttora aperto. Tra l'altro sugli Eurobond Francia e Germania, quanto si apprende, avrebbero detto prima una politica fiscale o almeno una convergenza delle politiche fiscali europee e poi forse parliamo di Eurobond. Lei condivide questa analisi? Nessuno può veramente discutere questa posizione, perché è chiaro che quando ci sono dei bonds comuni bisogna anche mettere la politica fiscale in comune. Come? Quando? Tutto questo rimane ancora da discutere. Se si pensa all'opposizione dei moltissimi stati contro l'idea delle sanzioni automatiche, si capisce che diventa un po' difficile parlare dei bonds comuni se poi il rischio è sopportato da tutti. E intanto sul fronte americano questa notte è arrivata una novità importante. Senza ideologie e senza timori di inimicarsi una sua stessa parte di senatori, Barack Obama fa approvare il compromesso sui tagli fiscali per tutti, compresi i super ricchi. Un compromesso che ora è legge ed è considerata dagli analisti la legge fiscale più importante da 10 anni a questa parte. Scrive così il Washington Post. La legge approvata oggi ha fatto infuriare i liberals democratici, come racconta il senatore democratico Brown. In molti hanno protestato contro Barack Obama, dandogli del traditore del ceto medio. Il presidente ha replicato alle accuse osservando che senza un'intesa, entro la fine dell'anno, anche i tagli al ceto medio sarebbero stati abrogati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo in Italia, sotto esame c'è il Ministero del Turismo, si indaga sulle consulenze. Utilizzo di risorse pubbliche per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto delle consulenze, nel caso specifico attività di partito. Ecco qua l'ipotesi di danno che sta alla base dell'istruttoria aperta nei confronti di Michela Brambilla. La Corte dei Conti vuole vederci chiaro dopo che alcune indiscrezioni di stampa hanno messo la pulce nell'orecchio della Procura del Lazio. Secondo queste indiscrezioni un numero imprecisato di persone, 10 o 15, assunte presso il Ministero del Turismo come consulenti per il rilancio dell'immagine immagine dell'Italia, svolgerebbero invece attività di partito. Persone il cui comune denominatore sarebbe quello di aver lavorato nel settore dello spettacolo, in particolare nelle televisioni Mediaset, dunque pagate dal Ministero, attive nei circoli della libertà. A questo punto sarà necessario esaminare l'oggetto delle consulenze, la durata, i curricula degli assunti e il compenso stabilito. I magistrati contabili dovranno poi valutare se le consulenze erano necessarie o meno, se è vero, come è vero, che sono stati richiesti tagli economici generalizzati ai ministeri e che proprio l'ultima manovra finanziaria ha ribadito regole ferree per le consulenze nelle pubbliche amministrazioni. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vi avevamo promesso i sorteggi di Champions League nell'edizione delle 12. Ora il quadro è chiaro e allora io saluto ancora Carlo Genta. Manteniamo la promessa. Che succede? Che ci aspetta? Beh, la pesca, se non è stata miracolosa, è stata certamente fortunata per le tre squadre italiane che rischiavano molto in questo giro di accoppiamenti per gli ottavi di finale. Erano tutte seconde, hanno preso secondo me il meglio possibile. Il Milan giocherà con il Tottenham, che nella prima fase abbiamo visto nel girone dell'Inter. Per la Roma, tra l'altro, prima sorteggiata in assoluto ci sarà lo Shakhtar Donetsk e per l'Inter una affascinante riedizione della finale di Madrid, perché incontrerà questa volta in doppio confronto naturalmente il Bayern di Monaco, che appunto ha battuto a Madrid conquistando la Coppa. Bayern di Monaco che non sta vivendo una stagione semplice, anche in Bundesliga è piuttosto attardato. Insomma, rispetto alle avversarie che ci potevano capitare, Barcellona, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, tutto sommato è andata bene. Ma benissimo. Per quanto riguarda gli altri accoppiamenti, affascinante Arsenal-Barcellona. Per il Real Madrid di Mourinho ci sarà il Lione, che ha eliminato proprio le merengue nella scorsa edizione della Champions League, quindi Marsiglia-Manchester United. È andata bene al nostro amico Carletto Ancelotti, che con il suo Chelsea troverà il Copenaghen. C'è anche Valencia, Schalke 04 a completare il quadro, Anna. Grazie a Carlo Genta. Questo dunque è il menù per la Champions League. Neve, freddo, in alcune zone la situazione è difficile. Cominciamo allora a sentire come va sulle strade. C'è l'appuntamento con che strada fa, poi vi racconteremo cosa sta succedendo anche sul fronte dell'emergenza per i senza tetto tra poco. Le notizie di oggi di GR24, domiciliari per il ragazzo con la pala, Alfano invia gli ispettori dopo le scarcerazioni per gli scontri a Roma, Maroni sugli infiltrati, solo illazioni. Berlusconi con me altri 8 e la Corte dei Conti indaga sui consulenti del ministro Brambilla. Pesca fortunata per l'italiano in Champions, per l'Inter riecco il Bayern Monaco. Ma riprendiamo dall'emergenza neve. La corrente siberiana sta facendo battere i denti in tutta Italia. Nevica, avete sentito, praticamente in tutte le regioni, con disagi per la viabilità. Facciamo il punto con Maria Piera Ceci. Sì, Anna, ieri la neve sul litorale adriatico, con scene davvero inedite di sciatori sulla spiaggia. Ebbene, questa mattina primi fiocchi sul litorale romano nella zona di Fiumicino e Ostia in tarda mattinata. Risalendo la costa tirrenica, uno strato bianco ricopre anche la Versilia, tutti bianchi anche monumenti di Piazza dei Miracoli a Pisa, fra la meraviglia dei turisti, soprattutto asiatici, che si stanno sbizzarrendo con le loro consuete fotografie. Per restare su posti di mare, nevicata anche ad Ischia e Capri, e non si è trattato solo di una spruzzatina, non succedeva da almeno 20 anni. E ha riportato invece sintomi di assideramento un uomo di 39 anni rimasto bloccato nella notte nella sua auto uscita di strada a Passo Gardena, oltre 2000 metri in Alto Adige. Ha trascorso diverse ore, pensate, a meno 14. Abbiano invece, un paesino di 400 anime in Trentino, l'ufficio postale è rimasto aperto questa mattina solo per un paio d'ore. L'unica impiegata ha infatti tentato di scaldarsi con una stufetta, poi ha desistito e ha chiuso bottega appendendo un bel cartello "chiuso per freddo". Stamattina si registravano meno 15. Ed è emergenza naturalmente per i senza tetto. Qui accanto a me Paola Anania, che questa notte si è fatta un giro con i City Angels. Com'è andata? Buongiorno Piera, buongiorno a voi. È stata dura come esperienza. Oggi, la notte scorsa a Milano c'erano meno 4 gradi, un'esperienza difficile. Siamo andati in giro con i City Angels, che per chi non li conoscesse sono un gruppo di volontari che da 16 anni danno una mano ai senza tetto, portano cibo, coperte, vestiti, insomma tutto quello che riescono a portare per dare una mano a queste persone. Ieri abbiamo iniziato il giro intorno alle 21, il giro è finito alle 2 di notte con un freddo, alla fine non riuscivo a dare una mano, insomma era un freddo particolarmente complesso e difficile da gestire. La prima tappa che abbiamo fatto è stata in centro tra il Duomo e San Babi, la cosa che insomma mi ha lasciato un po' perplessa, perché in centro si pensa sempre che non ci siano senza tetto, invece mi dicevano proprio i City Angels che di giorno ci sono i senza tetto, noi non li vediamo perché presi dalle compere eccetera si nascondono tra la folla. Qui abbiamo incontrato un signore, probabilmente uno dei più fortunati, lui ci ha detto di avere una casa però vive con 250 euro al mese, quindi non ha i soldi per mangiare, quindi ha questa casa, una casa senza riscaldamento, senza acqua calda, si riteneva un fortunato. Sentiamo cosa ci ha detto, poi a voi la linea. 2-3 giorni fa una donna di 48 anni è morta, l'ennesima, cioè non è che era la prima, era l'ultima di una lunga serie. Purtroppo speriamo che sia l'ultima, ma non è l'ultima. Ho conosciuto uno, dice che ha 25 anni, che vive così, un altro 12 anni, in strada. Come fanno quando c'è molto freddo? Si mettono 7-8 coperte addosso, perché una coperta sola muori comunque. Quando va sotto zero è l'unica cosa bella di quello lì, che non te ne accorgi. E niente, si muore, di freddo si muore, punto e basta. Grazie a Paola Anania. Anna, a te la linea. Grazie. Non va meglio all'estero. Migliaia di tir sono fermi da ieri sulle autostrade nel nord-est della Francia, dove stanotte sono caduti fino a 20 centimetri di neve. Oggi è giornata di partenze per il weekend, quindi si teme intorno a Parigi il blocco verificatosi l'8 dicembre sempre per la neve. Aeroporti chiusi e treni fermi in Gran Bretagna. Il ministro dell'Energia ha avvertito che se il freddo continuerà durante il periodo di Natale, il carburante per il riscaldamento domestico potrebbe non bastare. Torniamo al fronte giudiziario, c'è un'importante notizia dell'ultima ora battuta in questo istante dalle agenzie. Sono stati tutti rinviati a giudizio le 8 persone indagate a Salerno per il caso De Magistris, quanto deciso oggi il GUP del Tribunale Vincenzo Pellegrino. La vicenda è quella del presunto complotto denunciato dall'attuale europarlamentare per impedirgli di proseguire quando era PM a Catanzaro le indagini Why Not e Poseidone. Si tratta di ex magistrati di vertice di Catanzaro, esponenti politici e professionisti, tutti e 8 rinviati a giudizio. Quante volte si parla della cronica mancanza di fondi delle scuole, si prende ad emblema di questa situazione la mancanza di carta igienica nei bagni. Ebbene, la Lucart Group, gruppo multinazionale con a capo cartiera lucchese, ha organizzato una gara di creatività in 24.000 scuole, narrativa, poesia, pittura, video sulle tematiche dell'ambiente e del riciclo, con un premio molto speciale. Il marketing director della cartiera Lucart, Massimo Oriani. Il tema centrale è la salvaguardia dell'ambiente, quindi i migliori lavori, i migliori 40 lavori verranno premiati con una... Un premio molto particolare. Sì, in realtà sì, diciamo forniremo ai primi 40 vincitori una fornitura di un anno di carta fondamentalmente, quindi carta che viene definita tissue, quindi per utilizzi igienico-sanitari, quindi dalla carta igienica al rotolone al fazzoletto, ai tovaglioli, e quindi per un valore di diciamo oltre 1.000 euro. Stiamo seguendo il viaggio nello spazio dell'astronauta italiano Nespoli. Allora io saluto anche oggi Gigi Donelli. Buongiorno Anna, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Dove sei oggi? In un posto molto particolare? Assolutamente sì, in realtà siamo solo a circa 20 chilometri in linea d'aria dal Cremlino, siamo in un luogo che si chiama la città delle stelle, letteralmente, è il luogo segretissimo dove 50 anni fa iniziò l'epopea spaziale, quindi dicevo oggi non è altro che la grande periferia di Mosca, anche se è circondata da una foresta. Allora era veramente un luogo segreto e lontano dove formare le prime generazioni di astronauti. Gigi, siete lì anche per seguire ovviamente il viaggio di Nespoli, che a questo punto dove si trova? A questo punto si trova sopra di noi, circa 400 chilometri, lui ogni 90 minuti assieme ai suoi due compagni di volo viaggia e completa il giro intorno alla Terra. Il momento dell'inseguimento alla stazione spaziale si sta quasi per completare, alle 21.12 di questa sera ora italiana, rallenterà progressivamente la corsa, ve lo ricordo, la stazione spaziale viaggia in orbita a oltre 27.000 km all'ora e avverrà l'aggancio che noi naturalmente seguiremo e vi racconteremo. Ecco Gigi, noi siamo abituati anche dai film a Houston, quindi al lato americano di tutte queste missioni. Qui siamo invece in Russia, stanno controllando i russi. Hanno già preso contatto con gli astronauti? Come funziona lì? Assolutamente sì, i contatti sono continui e ripetuti direttamente con il modulo Soyuz. Giustamente tu hai parlato di Houston come centro di controllo americano storico. Beh, la città delle stelle assieme alla base di Baikonur sono l'equivalente russo. Non dimentichiamo che peraltro da qui è stato poi lanciato il primo uomo nello spazio, era l'aprile del 61, Yuri Gagarin. Quindi controllo continuo. Centro di controllo, in realtà, al di là delle immagini, del look, i meccanismi sono molto simili. Per ora l'operazione procede regolarmente, anzi in maniera nominale, come si dice in astronautica, e diciamo attendiamo solamente il completamento dell'aggancio perché inizi la missione vera e propria, lo ricordo, di Nespoli, 6 mesi nello spazio. E noi aspettiamo te ancora per gli altri aggiornamenti, per sapere quali saranno le prossime tappe. Nel frattempo grazie a Gigi Donelli. Grazie a voi, a presto. E saluto, mi ha raggiunto un altro collega. Abbiamo parlato di Champions, c'è un'altra storia che appassiona nel mondo del calcio, la vicenda di Cassano, il discusso giocatore della Samp. Come ha stabilito il collegio arbitrale, dovrà essere reintegrato in squadra dal 1 febbraio, ma con metà dello stipendio. Le valigie però sono pronte. Dario Ceccarelli, che ne dici? L'Inter? Sì, Caran, tanto per cominciare, beh, dell'Inter ne parliamo subito dopo. Intanto parliamo di Cassano, perché perdere metà dello stipendio, anche se in busta paga restano più di 100.000 euro al mese, non è molto simpatico. E quindi, visto il clima ostile, Cassano è pronto a cambiare aria. Al momento in pole position è il Milan, si parla di un prestito gratuito, ma si parla anche di un affare già fatto con un contratto da 3 milioni netti a stagione sino al 2014. Il problema a questo punto è capire quanto Cassano sia gradito sia allo spogliatoio che ai tifosi poco disposti a seguire le bizze del fantasista. Tanto per dirne una, Ibrahimovic ha detto che lui è contento di chi c'è, come dire Cassano se ne stia pure a casa sua. Quanto a Berlusconi, beh, gli viene attribuito questa battuta: dopo la fiducia mi prendo anche Cassano, cosa che probabilmente mette i brividi ad Allegri, che finora se l'è cavata benissimo con giocatori meno fantasiosi ma più disciplinati. E dicevamo, allora l'Inter? L'Inter pare che non sia interessata, a parte che Benitez ha già i suoi pensieri con la finale di domani del Mondiale, ma poi Moratti, come sentite adesso, ha smentito tutto. Per il momento non sta in piedi, cioè non abbiamo fatto niente, e non è per disistima nei confronti di Cassano, certamente è un grande giocatore che... E devo dire a suo modo è anche un bravo ragazzo, ma non credo che proprio noi in questo momento stiamo cercando un giocatore simile. Sì, insomma, non interessa. È strano perché all'Inter hanno mollato Balotelli, che è un altro bel tipino. Prendere Cassano, di 8 anni più vecchio, sarebbe davvero assurdo. Ma l'Inter, come si sa, è spesso affascinata dalle imprese assurde. A te, Anna. E quindi vedremo cosa succederà. Nel frattempo però noi invece ci fermiamo qui, sono le 13:27, vi ricordo tra poco Italia in controluce, prossima edizione di GR24 alle 14 in regia Roberto Scaltritti. Ancora un saluto, un buon fine settimana da Anna Migliorati.